1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ricordatevi che ci siamo, cari ascoltatori, fino al 24 di dicembre. Per quel che mi riguarda, la vigilia di Natale, eccoci qui. Siamo pronti a leggere i giornali quando sono le 7 e quasi 19 minuti. Oggi è l'ultimo giorno di scuola per molti bambini. Stanno accompagnati, venite accompagnati tutti felici, le recite di Natale, viva viva. Oggi non ho notizie su Babbo Natale, ve lo dico subito, cari genitori, state sereni, state tranquilli, non tappate pure le orecchie ai vostri bambini. E allora andiamo a leggerli questi giornali. Questo martedì 22 dicembre, i titoli, il Sole 24 Ore, come molti giornali, apre sul discorso del Presidente del Capo dello Stato Mattarella. Episodi gravi, il risparmio va tutelato, questo è il titolo di prima pagina del Sole. Mentre il Corriere della Sera, banche, il richiamo di Mattarella. Così Repubblica, allarme del Colle, banche, fatti gravi, ora serve la verità. Il titolo di prima pagina invece del Messaggero, banche, richiamo di Mattarella, è il titolo. La Stampa, Mattarella no a conflitti tra poteri. E mentre Libero, il comitato segreto di Etruria, papà Boschi sempre più nei guai, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece, CSM, le prove sul conflitto di interessi del PM di Etruria. Come vedete si parla sempre di banche. Per il Giornale invece, bomba Coop sui risparmi. In Friuli un doppio crack sulle spalle di 20.000 pensionati, ma i clienti nel paese sono 1,3 milioni, quindi apre un nuovo fronte le cooperative, il Giornale. La vicenda spagnola invece, coi riflessi italiani per l'unità, te la do io l'Italia, è il titolo però principale dedicato al paese di Casaleggio. L'unità si concentra sul libro Veni, Vidi, Web, il libro di Casaleggio con l'inquietante programma di governo a 5 Stelle. C'è uno stralcio di un capitolo, abolire macellerie, librerie, statue di Garibaldi e ipermercati. Questo è uno stralcio del libro di Casaleggio che viene riproposto dall'Unità con tanto di risalto in prima pagina. La Spagna invece, il manifesto, Pablo è vivo, è la foto del leader di Podemos che ottiene il 20%. Voglio partire da qualche notizia tipo questa che mi ha molto colpito, riguarda le famiglie, tutte le persone che si separano e un emendamento alla legge di stabilità. Se l'ex non paga il mantenimento, lo anticipa lo Stato ai più poveri. Questo pagina 29 del Corriere della Sera è un emendamento dell'onorevole Gea Schirò che lo ha presentato e la deputata del PD in pratica dice questo. L'emendamento istituisce al Ministero della Giustizia un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. È previsto uno stanziamento di 250.000 euro per il 2016, di 500.000 euro per il 2017. Funziona così. Se una moglie separata, o anche un marito, ma in genere percentualmente più la moglie, non riceve dal partner l'assegno di mantenimento e non è in grado da sola di provvedere a sé e ai figli minorenni o anche maggiorenni con handicap grave, può rivolgersi al tribunale di residenza e chiedere l'anticipo della somma. A quel punto il presidente del tribunale o un giudice valutano l'attendibilità della richiesta e entro 30 giorni la trasmettono al Ministero della Giustizia per l'esborso. Ora ci sono le critiche, c'è chi propone, come Gea Schirò, questo provvedimento e dice sono esperimenti simili, sono stati fatti in Inghilterra e hanno ridotto di molto le situazioni di violenza familiare. C'è chi, come Anna Maria Bernardini De Pace, la stronca in maniera totale dicendo il provvedimento è sbagliatissimo, fa decrescere la responsabilità del coniuge moroso, che continuerà così a fare quello che gli pare, tanto paga lo Stato, cioè noi. Elvira Serra lo racconta, pagina 29 del Corriere della Sera, questo emendamento alla legge di stabilità che riguarda le famiglie separate e che fa discutere certamente. Mi sembra interessante, mi sembra che impatti la vita, se passa, di molti, molti italiani. A proposito invece di coppie scoppiate, c'è questa vicenda che si intreccia tra vicende personali e la politica, che riguarda il sindaco di Catania Bianco e la ex moglie. Lo racconta Emanuele Lauria su Repubblica a pagina 15. La ex moglie di Bianco, sono separati da 5 anni, chiede al comune di Catania, che è retto dall'ex marito, 4 milioni di euro. Catania, l'ex moglie di Bianco, vuole 4 milioni. È una vicenda che riguarda un esproprio sottostimato, per il quale poi, rivolgendosi al tribunale, la ex moglie di Bianco, Maria Antonietta Zeno, ha avuto tutte le ragioni del caso, quindi il tribunale gli ha dato ragione, e dunque per un esproprio del comune, quando non era sindaco peraltro suo marito, il suo ex marito, ora ha avuto ragione e Maria Antonietta Zeno chiede al comune di restituirgli 4 milioni di euro. Il problema è che il sindaco ed ex marito dice: se noi dovessimo dare questi soldi subito a mia ex moglie, il comune andrebbe in default, sarebbe un disastro, rischieremmo il crack. Insomma, è una storia raccontata da Emanuele Lauria, che mette insieme sia vicende familiari e personali, ma anche vicende che riguardano il comune, appunto. A proposito sempre di famiglie, invece, mi ha un po' preoccupato ciò che scrive Libero a pagina 7. Il titolo è molto duro, è fatto per attaccare il governo. Renzi spreme i disabili per curare i conti. La vicenda raccontata da Antonio Castro riguarda 300.000 famiglie stimate che hanno un invalido, un disabile a casa. Infatti il governo, scrive Libero, rischia di mettere in difficoltà e spremere ulteriormente queste 300.000 famiglie, ovvero tutte quelle con un familiare invalido o disabile ricoverato in una delle residenze sanitarie assistite, le RSA o gli hospice o le case protette. Perché? È stato considerato, nonostante emendamenti bipartisan che volevano cambiare questa regola, è stato ribadito che ai fini del reddito ISEE anche le indennità di accompagnamento e invalidità costituiscono reddito, e dunque chi è ricoverato in una residenza sanitaria assistita pagherà fino al 50% in più la retta in base a un reddito artificiosamente gonfiato dallo Stato. Nonostante 3 pareri del TAR, il governo bastona più di 300.000 famiglie, scrive Libero. Devono considerare appunto nel reddito anche gli assegni in accompagnamento, e vuol dire che chi è ricoverato rischia di pagare una retta che può aumentare del 50%. È una storia raccontata da Libero a pagina 7. Tra l'altro, a proposito di storie molto molto bizzarre, sentite questa. Il sindaco antipizza. C'è anche questo. Simone Di Meo racconta la decisione shock nel comune considerato più tossico d'Italia dal punto di vista dello smog. Siamo a San Vitaliano, 6.000 anime della profonda provincia napoletana. Pagina 18 del giornale, eccolo qui che spunta il sindaco antipizza. Il titolo è questo: la margherita inquina. Margherita, la pizza, quella lì. Per colpa dello smog, il sindaco di San Vitaliano, Antonio Falcone, con un'ordinanza ambientale gastronomica ha vietato la cottura e la vendita di pizze, panini, baguette, saltimbocca, panuozzi, biscotti e rococò. Il motivo è proprio questo: i forni a legna, accesi per troppe ore, provocherebbero, a suo dire, minacciose nubi di polveri sottili nell'aria. E allora che dire? Dobbiamo anche commentarla questa notizia. Per contrastare lo smog, i forni spenti a San Vitaliano. Circolino le macchine, magari caldaie accese, non lo so se fa così caldo, ma caldaie accese, caldaie fuori norma, eccetera. Ma i forni che fanno le pizze margherite? Ah, quelli sì che sono colpevoli. Vi abbiamo beccato. Niente, pizze margherite vietate. Che dovete fare? Così è. Ma eccoci qua, all'articolo che mi fa più incazzare della giornata. L'articolo da mani sul volante. Visto che si tratta di treni, potremmo mettere mani sui braccioli, mani sul macchinista, no, non c'entra niente in questo caso, ma racconta tutto il Fatto Quotidiano con Marco Lillo a pagina 12. Ricordate la vicenda di Ferrovie Trenord, con un funzionario dall'interno delle Ferrovie Trenord che ha parlato, andò dai carabinieri parlando di spese pazze, facendo partire un'inchiesta, ebbene denunciò gli sprechi, ora fa il passacarte. Grazie a lui i ladri sono stati cacciati da Ferrovie Nord Milano, una società quotata in borsa e controllata dalla regione Lombardia, scrive il Fatto. Grazie a lui e non grazie alla regione o alla Consob, le spese pazze per auto, quadri, scarpe, viaggi, pranzi sono state scoperte dai magistrati. L'ex presidente è stato indagato per peculato e truffa e l'ex presidente del collegio sindacale per tentato favoreggiamento. Per premio di tutto ciò, il funzionario dell'audit di Ferrovie Nord Milano, Andrea Franzoso, che è colui che ha appunto permesso tutta questa inchiesta, è stato messo fuori gioco. Il cosiddetto whistleblower, cioè quelli che soffiano nel fischietto, quelli che denunciano dall'interno quello che non va nelle aziende, non fischierà più. La gola profonda che ha collaborato con i magistrati è rimasto senza voce. Per lui un incarico da passacarte. Così, scrive amaramente il Fatto Quotidiano, impara la lezione. Eccolo qui, insomma, denunciò gli sprechi e ora è stato degradato a passacarte. Evviva! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Mira, il tronca dell'informazione. Il prefetto, chissà come sta il prefetto, tronca per Natale. Allora, cari italiani, è il momento di parlare delle banche. Vabbè, ieri il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha parlato di tanti temi, ovviamente, e non solo delle banche nel discorso alle massime autorità dello Stato, ma chiaramente i titoli principali sono proprio dedicati a questa tematica. Episodi gravi, il risparmio va tutelato, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 5, che riassume un po' l'intervento del capo dello Stato su questo tema, anche se poi Mattarella ha aggiunto su Banca Italia che sta utilmente operando su cautele e regole, quindi anche una difesa di Banca Italia, tanto che oggi Giannelli fa questa vignetta in prima pagina del Corriere della Sera, abbastanza polemica. La Repubblica tutela e incoraggia il risparmio. E c'è Mattarella che dice: i giudizi ingenerosi sulla Banca d'Italia, risparmiateveli. Insomma, non male la stoccatina di Giannelli con questa vignetta al capo dello Stato. In ogni caso, a parte il discorso del capo dello Stato, ci sono tanti articoli che si concentrano sulla vicenda Banca Etruria, interessanti. Beh, intanto un sondaggio generalizzato sulle banche. Sentite cosa scrive Ilvo Diamanti a pagina 4 di Repubblica. La fiducia nei confronti delle banche da parte degli italiani crolla al 16%. Crolla la fiducia negli istituti di credito. Ormai sono affidabili, sono per il 16% degli intervistati. Pensate che nel 2010... era il 23%, quindi nel giro di 5 anni è crollata la fiducia di 7 punti percentuali. Per quel che riguarda le aree geografiche, al nord-ovest dell'Italia la fiducia è un po' più alta, al 21%, al nord-est il 14%, complice anche vicende evidentemente recenti. Al centro Italia e al centro sud il 13% degli italiani solo credono alle banche, mentre nel sud e nelle isole il 15%, una media alla fine del 16%. Questo Ilvo Diamanti è l'analisi a pagina 4 di Repubblica. E poi i particolari ancora su Banca Etruria. Il Sole 24 Ore racconta con Sara Monaci le consulenze e gli immobili venduti in maniera sospetta. Nella terza ispezione della Banca d'Italia nei confronti di Banca Etruria, conclusasi col commissariamento nel febbraio 2015, si torna a parlare di abuso di consulenze e strane operazioni finanziarie. Non solo già quella nota, ma anche una compravendita immotivata con la controllata Banca del Vecchio, che vende due immobili dopo averli acquisiti pochi anni prima. Dunque, nell'ispezione del febbraio 2015, oltre alla gestione del credito deteriorato, all'impianto amministrativo contabile e all'antiriciclaggio, per Banca Italia sono da evidenziare anche partite di giro opache. E poi, insomma, i dettagli. Questo a pagina 7 del Sole 24 Ore, Sara Monaci tutti i dettagli li spiega. E così come La Stampa racconta con Gianluca Paolucci a pagina 3, così Boschi Senior, cioè il papà di Maria Elena Boschi, rimase al vertice nonostante i dubbi di Via Nazionale. Secondo gli ispettori Banca Italia, il consiglio di amministrazione dell'Etruria era inadeguato, ma il rinnovamento ha risparmiato 8 consiglieri su 15, tra questi appunto anche il presidente, il vicepresidente Boschi, nonché papà di Maria Elena Boschi. Insomma, è chiaro che la situazione è difficile. Non vorremmo che si moltiplicassero le azioni tipo quella che ha fatto un 35enne a Castelfranco Veneto, che prima ha partecipato come azionista all'assemblea dei soci di Veneto Banca domenica e poi o sabato, non potendo avere indietro i soldi, ha finito per tentare di rapinare la sua stessa banca, una filiale. L'uomo, racconta sia Libero che il giornale, è arrivato a Castelfranco, ha detto che voleva esercitare il diritto di recesso, voleva vedersi restituire il suo denaro, il direttore gli ha spiegato di non poter far nulla perché c'è una lunga procedura, a questo punto ha perso il controllo, ha iniziato a inveire contro il dirigente, ha dato in escandescenza, ha rotto una porta e si è dileguato con 7.000 euro della stessa filiale. Poi è stato bloccato ed è finito ai domiciliari con l'accusa di rapina. A proposito di banca, il Fatto Quotidiano torna invece a concentrarsi sul rapporto tra il procuratore capo di Arezzo, che indaga su Banca Etruria, e il governo. Secondo il Fatto ci sono le prove sul conflitto di interessi del PM di Etruria. Davide Vecchi racconta tutto a pagina 7, le amnesie di Rossi è il procuratore capo, sulla consulenza per Palazzo Chigi. Il CSM dice sul PM capo di Arezzo, chiese la proroga dell'incarico e fu pagato 7.500 euro lordi complessivi. E dunque è stato omesso questo conflitto di interessi per la banca. Secondo il Fatto Quotidiano, in questi documenti c'è la prova che questo conflitto di interessi in realtà c'è. E la vicenda continua. In tutto questo invece in Italia si è tornato prepotentemente a parlare di Italicum. Io, se c'è una cosa per cui, come ho detto, maledico le elezioni spagnole, è perché incredibilmente le elezioni spagnole, che hanno portato a un'incertezza del voto, a nessun vincitore in maniera chiara, hanno rilanciato il dibattito sull'Italicum in Italia. Cosa che veramente di cui si sentiva molto la mancanza. Io immagino in tutti i bar e davanti a tutti i cappucci, i caffè, le fette con la marmellata, durante le vostre colazioni, nelle vostre macchine, nei vostri treni, adesso sicuramente anche sui posti di lavoro, ripartirete con questo dibattitone sull'Italicum sì o Italicum no. Alla luce dei risultati spagnoli soprattutto, un riflesso fondamentale. Sull'Italia. Allora, Renzi dice in un'intervista del Financial Times: benedetto l'Italicum, meno male che abbiamo varato noi nuove norme in grado di dire chi ha vinto il giorno stesso del voto. In chiave europea questa è la lezione per l'Italia. Ed eccola subito la minoranza. Bersani, sbagli! La governabilità non può essere una camicia di forza. Sono radicalmente in disaccordo con Renzi, dice Pierluigi Bersani all'Huffington Post. Dire che dopo la Spagna va bene l'Italicum significa dare una lettura profondamente sbagliata di ciò che è accaduto in Spagna. E vabbè, questo dibattito sull'Italicum. Renzi, per la verità, dice qualcosa di più al Financial Times. Per esempio, la seconda stoccata in pochi giorni ad Angela Merkel e all'Unione Europea a trazione tedesca. Ho stima per lei, cioè la Merkel, ma dobbiamo essere franchi, l'Europa deve essere al servizio di 28 paesi e non solo di uno. Questa è la posizione di Matteo Renzi riguardo alla Germania e ad Angela Merkel, e dunque continua un po' questa disfida con la cancelliera tedesca. La gente era solita fare smorfie quando l'Italia parlava, ma quell'era è finita. C'è un'altra Italia ora che è nella posizione di dire ciò che pensa dell'Europa. E ancora sui migranti, Renzi dice al Financial Times: noi ora prendiamo le impronte digitali, facciamo le foto, controlliamo le iridi. Tra luglio e agosto la Germania ha accolto diversi migranti e non ha preso le impronte perché Merkel disse che la solidarietà veniva prima della burocrazia. Allora ciò che è valido per l'Italia deve essere valido anche per la Germania. Leggo la sintesi di intervista al Financial Times nell'articolo di Marco Galluzzo a pagina 11 del Corriere della Sera. Comunque si litiga sull'Italicum in Italia e andiamo comunque avanti. È il momento del nostro... Diamo il benvenuto a Mauro Meazza. Eccolo qua. Ben trovato e benvenuto. Buongiorno Adriano. Buongiorno Mauro Meazza. A Rai 1 da Adriana Volpe. Rai 2, cos'è? Rai 3, cos'è? Rai 4, dov'è che eri ieri? Sono stato un po' ospite, gradito. No, ma noi interessa da Adriana Volpe. Sì, sono stato anche ospite da Adriana Volpe ai Fatti Vostri. Non mi sembra una cosa da celebrare con tanta enfasi, caro. No, vabbè, ti hanno fatto gli applausi, noi volevamo... Sei invidioso per caso? No. Sono contento per te. Proprio in quell'occasione ho incontrato un nostro fedelissimo ascoltatore. Sì, il maestro Demo Morselli che si è complimentato anche con te. Mitico, quindi... Demo Morselli, ma è grandissimo, un abbraccio. Saluti. Maestro, un abbraccio. Torniamo a Demo Morselli, non Mauro Meazza. No, certo, ci mancherebbe altro. Volevo dirti, stai leggendo religiosamente non le pagine di Norme Tributi, caro Alessandro, bensì le pagine del Salva Risparmio? Comprendi il significato del prospetto MIFID? Ce l'ho qua, guarda, me lo sono tenuto proprio da parte. Allora, ricordiamo a beneficio di tutti gli ascoltatori che da oggi fino alla fine dell'anno pubblichiamo 4 pagine di educazione finanziaria. Ottimo. Cioè, cerchiamo di spiegare tutte le cose che è meglio sapere prima di decidere un investimento. Dopodiché, certo, ognuno farà le sue scelte più o meno avventate, più o meno avvedute. Però da oggi, con il Sole 24 Ore, all'interno delle pagine di finanza, che io sempre ti consiglio di leggere, all'interno di queste pagine di finanza troverai il Salva Risparmio. Mi raccomando, guarda che poi quando torno, perché oggi te ne vai debosciato. No, me ne vado per 3 giorni, sei tu il debosciato che se ne va da domani per settimane e settimane. Sì, ma mesi e mesi. Non facciamo questo teatrino ignobile, dedichiamoci alle cose serie. Tieni da parte queste puntate anche quando sarai in ferie, leggile, anzi soprattutto quando sei in ferie, perché poi guarda che il 7 gennaio ti interrogo. Ottimo. Puntualmente così a casaccio su tutto il programma, caro mio. Forse ti faccio anche un quiztone, come alla maturità. Allora, al di là del Salva Risparmio, guarda che abbiamo anche un ABC della legge di stabilità, che tu oramai dai per così consegnata alla storia. Oggi c'è il voto finale, quindi sì, oggi al Senato. E questo è molto importante. Noi intanto cominciamo a spiegare, partiamo dall'ABC per le imprese. Soprattutto il maxi ammortamento lì spicca. Ti sei accorto che spicca il maxi ammortamento? Esce quasi dal giornale. Fai della facile ironia, ma guarda che invece la misura è importante. Così come è importante nelle pagine di finanza, dove trovi le pagine di, dillo tu, vediamo se sei stato attento. Di finanza. Cosa c'è? Oggi è martedì? Salva Risparmio. Certo. Non sei attento, sei distratto. Stai guardando la televisione, cosa stai facendo? Stavo guardando la tua performance di ieri con Adriana Volpe. Va bene, allora torniamo alle cose serie e soprattutto utili. Nelle pagine di finanza il petrolio che continua a calare, è arrivato a $36, ti spiega per bene, sisti bell'uomo. E poi naturalmente ci sono le pagine di Norme e Tributi. Mi raccomando di non trascurare Norme e Tributi anche quando sarai in vacanza, perché avremo... ovviamente molte cose per te, oltre appunto questo ABC della manovra, ma ma soprattutto oggi parliamo anche di acconto IVA, ad esempio, che incombe dal giorno 28. Già, ti ricordavi dell'acconto IVA? No. Sì, purtroppo sì. Oh, meno male. Allora, un'ultima cosa, prima di farti tanti cari auguri per un 2016 calcistico di grandi soddisfazioni, soprattutto per la tua squadra, però innanzi ti voglio ricordare, quando vai alle assemblee di condominio, se anche volano parole grosse, per favore non farle mettere a verbale. Perché? Perché oggi è martedì e nella pagina di condominio riferiamo puntualmente che se poi c'è l'ingiuria per il condomino, questo potrebbe anche denunciarti. Quindi, e fa testo il verbale. Come il verbale è sempre un posticino così, un po' dove si scaldano gli animi. Attenzione, quelle cose che si dicono lì devono restare nello spogliatoio, come si dice in gergo calcistico. Sono chiarimenti normali che restano nello spogliatoio. Bene. E tutto ciò premesso per questo 2015. Buon Natale, ovviamente, Mauro. Ovviamente buon Natale. Buono scudetto per l'anno prossimo. Ma guarda, ti auguro la stessa cosa, una grande ripresa e addirittura anche una Champions League, così in aggiunta. E soprattutto, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Alessandro Milan, il sindaco di Roma dell'informazione. Milan, non era un complimento, eh? Ecco. Va bene, grazie. Allora, cari ascoltatori, oggi l'Unità ha una prima pagina di questo. Te la do io l'Italia. È un'analisi con commento di Fabrizio Rondolino di un nuovo libro di Casaleggio. Gianroberto Casaleggio, insieme a Grillo, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle. Questo libro si intitola Veni Vidi Web. Ecco qui l'inquietante programma del governo 5 Stelle. È un libro nel quale Fabrizio Rondolino dice: ecco cosa scrive Gianroberto Casaleggio in uno dei capitoli che viene riproposto interamente a pagina 7. Sentite l'Italia che vorrebbe Casaleggio, scrive Rondolino. Petrolio e carbone sono proibiti insieme alla circolazione di macchine private, i mezzi pubblici sono gratuiti, l'emissione di CO2 e il taglio indiscriminato di alberi sono puniti con la reclusione fino a 30 anni. Tabaccai, macellerie e librerie sono scomparse. E commenta Rondolino: ciò che avete appena letto, giuro, è stato scritto per davvero, non è una sintesi, una ontologia, una caricatura. Parole e frasi disposte intenzionalmente in quell'ordine, proprio nell'ordine che avete letto. E se non riuscite a capire perché, subito dopo aver condannato a 30 anni di galera chi taglia un albero, Casaleggio imponga la chiusura delle tabaccherie o delle macellerie o delle librerie, allora siete stupidi, andate a un meetup e tutto vi apparirà più chiaro. E ancora, corrotti e corruttori sono esposti in apposite gabbie sulle circonvallazioni delle città nel weekend. Gli ipermercati sono rasi al suolo ovunque, le statue di Garibaldi sono state sostituite da statue di Gandhi. Chi inquina è condannato alla raccolta differenziata a vita nel proprio comune. E chi possiede beni mobili e immobili per un valore superiore a 5 milioni deve restituire l'eccedenza, altrimenti sarà rieducato alla comprensione della vita in appositi centri yoga. Ma questo si legge, almeno scrive l'Unità, nel libro di Casaleggio, viene riproposta a pagina 7, ci sono due pagine, ovviamente è da qualche giorno che l'Unità attacca il Movimento 5 Stelle, anche perché da sondaggi si sente, insomma, evidentemente il fiato sul collo dal punto di vista politico del Movimento 5 Stelle sul Partito Democratico. Lasciamo l'Unità per andare a una storia di cronaca che è stata nel weekend tirata fuori da Giulia Innocenzi sul Fatto Quotidiano e che riguarda la morte di una donna, Dominique Velati, di Borgo Manero, Novara, per anni militante dei radicali, che è andata a morire in Svizzera, facendo il suicidio assistito, che in quel paese è consentito. Ed è stata aiutata dai radicali, era malata gravemente, aveva un tumore al colon, aveva poche speranze di sopravvivenza, se non attraverso cure molto molto dolorose ha deciso dunque così. E ora i radicali si autodenunciano con Marco Cappato a dire: così lo abbiamo aiutata a morire, denunciateci. anche se l'abbiamo fatta in Svizzera. Spera di essere processato Marco Cappato, scrive il Corriere della Sera. Comunque vada, dice, sarà un successo perché si farà chiarezza su un tema che interessa tutti gli italiani e non interessa i politici. E si racconta la storia di Dominique Velati, militante storica, morta appunto 6 giorni fa in un centro tra Berna e Zurigo in Svizzera. Riguardante tra Zurigo e Svizzera il 15 dicembre, ecco, non trovavo la data, eccola qui, è morta il 15 dicembre e tutti i giornali hanno almeno una pagina dedicata a questa vicenda con l'appello dei radicali, se ne parli, Il Giorno addirittura mette questa storia in prima pagina, c'è anche il commento con un'intervista di Eleonora Grossi a pagina 3. Un'intervista a Max Fanelli, è un affetto da SLA dal 2013, che anche lui dice il governo si deve vergognare, io capisco chi va a morire in Svizzera. Sono ovviamente posizioni, sono dibattiti molto profondi, molto difficili da affrontare, molto delicati. Il tema sul quale sono d'accordo totalmente con Marco Cappato e con i radicali a dire... Perché non se ne parla mai abbastanza? Perché la politica di queste cose non si interessa, in realtà interessano purtroppo le persone che vanno a incocciare poi in situazioni di difficoltà. Comunque tutti i giornali oggi dedicano una pagina almeno a questo. Mentre questa notizia c'è solo sul Corriere della Sera, in prima pagina, riguarda i due Marò. I due Marò, vicenda ormai quasi da telenovela, solo che con risvolti poco sentimentali. I due Marò, la mossa per portare a casa il Marò a Natale. In realtà se ne parla poco, ma uno dei due Marò è in Italia, è in convalescenza. Mentre il tentativo è quello di riportare a casa l'altro Marò, Salvatore Girone, che si trova ancora in India, e si racconta sul Corriere della Sera con Danilo Taino che c'è una svolta alla vicenda, una svolta se non definitiva almeno parziale, in attesa del giudizio del collegio arbitrale che dovrà stabilire dove tenere il processo. Sono passati 3-4 anni, quanti sono passati, e comunque c'è attesa perché Renzi, racconta il Corriere, avrebbe chiesto addirittura a Obama, alla Casa Bianca, di premere sul governo indiano e cercare di far tornare in Italia anche il secondo Marò, almeno per Natale. E New Delhi potrebbe arrivare a congelare il caso fino alla fine dell'arbitrato internazionale, e cioè dunque rimandare in Italia anche il secondo Marò. Ricordiamo che i due sono accusati di aver provocato la morte di due pescatori indiani il 15 febbraio 2012. Oggi questo lo racconta il Corriere della Sera. Si racconta anche molto del calcio terremotato con Platini e Blatter fatti fuori dalla FIFA. Non lo troverete sulla Gazzetta dello Sport perché oggi la Gazzetta dello Sport è in sciopero, anche perché credo sia stata annunciata la chiusura di Gazzetta TV, e quindi lo trovate però su tutti i giornali, non solo nello sport ma anche in altre parti, o nelle parti di cronaca, perché è una vicenda che va oltre lo sport. Siamo però alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Attenzione signori, ieri, ci fa sapere il Fatto Quotidiano, era la giornata mondiale dell'orgasmo, e allora il Fatto Quotidiano dedica mezza pagina di Elisabetta Ambrosi sulle francesi, non si sa perché le francesi Che fingono l'orgasmo. Il titolo è oui, ma bisognerebbe dire forse oui. Ecco l'orgasmo simulato dalle francesi, ma non solo loro, mezza pagina. Oui. Ma chi se ne frega.